Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Apriamo la settimana anche con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Troviamo il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, IMU se ne parla, se ne parlerà ancora. L'anno scorso è stato uno dei nostri argomenti cardine, lo sarà anche quest'anno, viste le decisioni così un po' attendiste intanto del governo, cioè di rinviare la tassa sulla prima casa al prossimo 16 settembre, in attesa, si è detto, di una revisione completa della tassazione sulla casa, anche della TARES. Però insomma anche quest'anno dobbiamo preoccuparci di questo. Certo, quando arriviamo alla fine di maggio e primi di giugno inevitabilmente bisogna preoccuparci di questo, soprattutto dell'IMU. Perché? Perché ad oggi non c'è notiziario che si apra senza questo nodo contrastato tra le varie forze politiche, però certamente è un argomento che interessa a tutti gli italiani ed è un argomento che alcuni partiti gli è stato permesso di poter andare al governo e adesso la prova del 9 deve mantenere la promessa. Certo che tutti ci aspettavamo un effetto dove si poteva metterci alle spalle questo flagello dell'IMU almeno per quanto riguarda la prima casa, e invece abbiamo visto che con la solita capacità che i nostri politici vengono contraddistinti ad oggi hanno solamente rinviato il problema a settembre, lasciandolo tale e quale quello di giugno, cioè quello che riguarda le seconde case, gli esercizi commerciali, i terreni e quant'altro. Quindi chi ha la seconda casa stia tranquillo che la rata c'è comunque il 16, anzi il 17, perché il 16 cade di domenica. Per tutti gli altri c'è un'attesa, sì, è stato calcolato un risparmio medio di 125 euro, medio ovviamente, poi sappiamo che per l'abitazione principale ci sono molte differenze tra città e comune, però poi ci sarà l'estate, ci sarà l'autunno, giusto? Ormai dobbiamo essere abituati, Mirko, che quando siamo d'estate il governo, in un periodo in cui le persone magari pensano alle ferie o a quant'altro, per chi comunque ha la fortuna di poterci andare, si dilettano sempre a inventarsi ogni sorta genere di tasse. Perché? Perché noi siamo qui che parliamo di IMU, che sappiamo che l'IMU ha una data prevista a scadenza il 16 giugno, ma dobbiamo anche ricordarci che comunque dal 1 luglio scatterà l'aumento dell'IVA al 22%. Conseguentemente a questo abbiamo anche sempre la partita della TARES. Certo, è un discorso molto complesso e anche noi come solito contestiamo sia l'efficacia che la norma, perché poi sia la TARES che l'IMU sono previsti conguaglio a dicembre, quando dicembre è un mese per eccellenza molto difficoltoso per le famiglie, e non troviamo neanche giusto far slittare eventuali pagamenti a settembre, quando a settembre, oltre al rientro dalle ferie, c'è l'apertura dell'anno scolastico. C'è un paradosso linguistico che segnalo. Adesso il governo si è impegnato a rivedere complessivamente la normativa sulla tassazione e è un paradosso linguistico il fatto che questa IMU sia l'imposta municipale unica, cioè un'unica tassa in cui dentro hai i servizi per l'asfaltatura delle strade, l'illuminazione pubblica, lo smaltimento rifiuti, cioè tutte le attività che giustamente vengono fatte in un comune a utilità dei cittadini e della comunità intera. L'auspicio è che effettivamente questa imposta sia unica e che non ci siano balzelli su balzelli che poi fanno confusione e alla fine fanno un totale probabilmente più alto. Ma in realtà noi con la fregatura l'abbiamo già presa l'anno scorso, perché l'IMU in un'ottica di federalismo fiscale doveva raggruppare la tassa sui rifiuti, l'IRPEF comunale e l'ICI. Il governo ha pensato invece di aumentare sia la tassa sui rifiuti e ha cambiato il nome da tassa dei rifiuti a TIA e adesso la chiamerà TARES, perché anche qui l'aumenteranno, perché andranno a prevedere dei costi separati rispetto a quanto si paga per dare modo comune di garantire i servizi, le addizionali comunali che come al solito vengono aumentate di anno in anno avendo possibilità da parte del governo di vedere quali che sono le aliquote minime e massime, e abbiamo che l'ICI è stata trasformata in IMU, e hanno pensato di andare a rivedere quelle che sono le aliquote, aumentare la rendita catastale del 60% e conseguentemente costringere un po' tutti a mettere mano al portafoglio rispetto a quanto si pagava negli anni precedenti, con l'aggiunta che, ricordiamo, l'anno scorso si è pagata anche per la prima casa rispetto a quanto invece fino a poco tempo fa invece non si doveva pagare. C'è un'altra questione: in queste settimane si stanno facendo, molti hanno già fatto la dichiarazione dei redditi calcolando già l'imposta dentro, e quindi adesso cosa succederà? Che verrà restituita, che verrà compensata? Credo che anche da voi molti si siano rivolti per questo caso, insomma, che non è così particolare, perché tanti hanno già fatto la dichiarazione dei redditi. No, non è un caso particolare, perché sappiamo che gli appuntamenti, soprattutto nei luoghi di lavoro, si prendono qualche mese prima, e non è neanche particolare la condizione in cui i comuni si trovano, dove avevano fatto conto di poter recuperare parte dei soldi che avanzano dallo Stato con l'introduzione dell'IMU, e questa sospensione certamente sta mettendo in condizioni i comuni ancora non capire come poter far quadrare i bilanci. Certamente per chi ha già proceduto con i calcoli, con i conteggi, deve valutare la possibilità di fare dei ravvedimenti o andare a compensazione rispetto a quanto è pagato o a quanto è dovuto, ma certamente, come al solito, vediamo che ogni volta che il governo definisce o approva una norma crea sempre un gran pasticcio, mettendo sempre in condizioni gli utenti finali a doversi districare tra mille burocrazie con una mano sul portafoglio, e partendo sempre dal presupposto che comunque il prodotto, il risultato finale deve essere quella di comunque continuare a pagare. Diciamo che almeno adesso c'è questo sollievo parziale, nel senso che non si sborsano soldi adesso, la speranza è che poi la mazzata non arrivi appunto a settembre, quando quasi sicuramente, era già stato deciso l'anno scorso, a luglio ci sarà questo aumento. Voi avete fatto un conto di quanto potrebbe incidere l'IVA al 22%? Beh, innanzitutto due cose voglio dire. Primo, io continuo a soffermarmi sulla TARES, perché la TARES, anche in funzione a quella che è stata un osservatorio istituito da Sole 24 Ore, che ha coinciso un po' con quelle che sono state le posizioni che ha fatto l'ADICO, risulta che inciderà di più dell'IMU. Secondo, abbiamo l'aumento dell'IVA, che sicuramente si parla di 150-170 euro, ma secondo noi sarà di più, perché sappiamo che gli italiani sono molto bravi ad arrotondare per eccesso i prezzi. Terzo, abbiamo questo IMU che certamente, come ho detto, a settembre doverla pagare non è un bel periodo, perché coincide con il rientro delle ferie, per chi, abbiamo detto, ha fortuna andare in ferie, ma soprattutto per chi dovrà andarsi a comprare i libri e i kit scolastici, perché comunque c'è da pagare l'iscrizione alle scuole e comprare tutti i materiali necessari. E dopo, la cosa peggiore è che i comuni, avendo subito un po' queste che sono le scelte del governo, e non avendo la maggior parte di quest'ultimi adeguato le tariffe a quelli che sono un po' la riforma di questa tassa, certamente a dicembre bisognerà attendersi il saldo rispetto a quanto pagato nella prima rata. E lo stesso principio vale per la TARES, in quanto sappiamo che se ad oggi non l'abbiamo ancora pagata, in realtà quando si farà con decorrenza dal 1 gennaio, ad oggi le rate pagate si calcolano con il vecchio sistema, ma anche qui hanno pensato a dicembre andare a saldare quello che sono un po' gli arretrati di quanto non pagato fino ad oggi. Va bene, una vera e propria giungla di cui torneremo certamente a parlare anche nelle prossime settimane. Intanto ci diamo appuntamento fra un paio di giorni con un altro argomento. Grazie all'Adico, a Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, Nicola, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.